E eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola, condotto da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Io sono Pietro e quello che è in linea con me è Claudio. Siamo all'episodio numero non si sa bene quale, ma è un 13. episodio abbastanza avanti, sì. 13, 13. Almeno 13 della stagione ufficiale in onda su Radio Big Sì. World. Più abbiamo fatto altri episodi pilota prima. No, Si trovano più perché sono antichi ormai. in realtà si trovano ancora, però sono sul nostro canale YouTube. Va bene. Allora, quella che avete sentito prima della mia voce è la nostra sigla di apertura, ovvero Happy Days di purpleplanet.com, quindi musica royalty free, quotiamo il sito da cui l'abbiamo presa, come da contratto. E se ci state ascoltando, probabilmente siete sintonizzati su Radio Big World o comunque sul canale SoundCloud di Radio Big World, la nostra radio madre. Bene, siamo pronti a parlare di giochi da tavola anche questa settimana. Sì. E come nelle ultime settimane, invece che portare dei giochi da esplorare, parliamo di un argomento. Se 2 settimane fa abbiamo parlato di giochi cooperativi e la settimana scorsa di giochi deck building, questa volta abbiamo un argomento un po' più personale. Ovvero, parleremo di giochi contenuti nelle nostre wishlist. E quindi, parlando della wishlist di Claudio, una wishlist chilometrica. Vabbè, perché siamo persone arroganti, quindi dobbiamo esporre le nostre idee nel modo più esplicito possibile. No, è perché tu sei un compratore compulsivo di giochi da No, no, no, tavola. no, no, questo non è vero. E Comunque, prima spieghiamo il termine, è perché... quello che volevo dire. Comunque, prego, spiega cos'è una wishlist. Tanto se traduciamo dall'inglese, diventa lista dei desideri, la parola wishlist. Che cos'è una wishlist? Quando un utente che partecipa, sai, che è parte di un forum o di anche un negozio di una casa editrice, magari, può avere questa opzione di creare una propria wishlist, cioè una lista di giochi da tenere in serbo per poi andare a consultare per ricordarsi che sono usciti e sono ancora disponibili o no, che se si vuole comprare per avere nella propria collezione. Insomma, una lista dei desideri, appunto, di qualcosa che si desidera e prima o poi si spera di comprare. Nel mio caso, la wishlist serve più che altro, almeno me personalmente, per ricordarmi cose che se no mi scordo, perché sono dei giochi che li vedi sul momento e dici bellissimo, lo voglio, poi 2 mesi dopo non ti ricordi neanche più che esiste. Anche perché siamo in un periodo in cui i giochi da tavola escono a Sì. mazzate, cioè ne escono tantissimi. È mostruoso. Io tutti i giorni consulto 2 siti, tutti i giorni, che sono, giustamente li citiamo, Tabletop Gaming News, più che altro per le uscite dei giochi da tavola. E su Tabletop Gaming News, la quantità di giochi Kickstarter che ci sono ogni giorno è spaventosa. E l'altro che consulto invece è più per le miniature, ed è Tabletop Fix. Che invece questo è per le uscite di miniature e ogni giorno ci sono un sacco di nuovi annunci delle case editrici. E appunto, consultando questi siti, capita spesso di vedere un gioco che magari ti interessa, e però non si vedrà nei negozi per mesi, e allora te lo segni sulla wishlist, magari su BoardGameGeek, no? Sì, dipende. Se, come dicevo prima, anche nei siti dove si comprano giochi da tavola è possibile creare la propria wishlist. Anche perché lì comunque possono arrivarti poi dopo gli sconti oppure dirti se è ancora in catalogo o meno. Ma nella mia scusa, i giochi che sono contenuti nella mia wishlist, ad esempio, non potrebbero esserci tutti nel sito di un gioco, di un negozio, perché alcuni sono dei giochi vintage e altri perché non sono ancora usciti o sono talmente indie e di nicchia che non arriveranno mai in tali store. Ecco, la maggior parte delle volte si possono reperire solo in America, sono usciti da quelle parti, per esempio. Già. E per l'appunto, se mi permette di iniziare, inizio io parlandovi di un gioco che è stato aggiunto alla mia wishlist, proprio di recente, da un paio di giorni, anche se l'avevo già adocchiato da molto tempo. Il gioco è The Captain is Dead ed è un gioco inizialmente autoprodotto tramite il sito The Game Crafter. Ah, The Game Crafter, che anche ok. Claudio ha usato per uno dei Sì. suoi progetti, è un sito americano che permette di caricare il proprio materiale di un progetto di gioco da tavola e dopodiché, quando questo verrà approvato, dopo aver comprato una copia di prova da chi l'ha caricato, perché altrimenti chiunque caricherebbe qualsiasi cosa, quindi almeno uno deve, perché questo, il suo proprio gioco sia visibile, deve comprarne una copia, come garanzia di qualità, diciamo, almeno, o un investimento per The Game Crafter soprattutto. Il gioco è disponibile dopo in print on demand, quindi quando una persona ne vuole una copia, The Game Crafter la confeziona una sola copia e gliela spedisce. Il È un gioco problema, no, italiano per caso? è americano e dovrebbe essere addirittura dei proprietari di Game Crafter, quindi. Hai ragione, no, che vedo che ha il disegnatore si chiama Gaetano Leonardo. Sì, il disegnatore ha nome italiano, però non so se sei italiano o italo-americano, visto quanti italoamericani ci sono. Va bene, scusa. No, è italiano, è italiano. Se vai sul suo account, sulla sua pagina di Board Game Geek, c'è scritto che è italiano. E tra l'altro, sì, ha fatto anche altri giochi. Comunque, The Game Crafter però ha due difetti, principalmente. Il primo è che qualsiasi cosa finisce su The Game Crafter. Quindi la qualità dei giochi è variabile. Ci sono anche molte cose di bassa qualità, sia dal punto di vista magari della presentazione grafica, che dal punto di vista del regolamento, del bilanciamento, anche dell'idea stessa del gioco. Ci sono cose discutibili, diciamo. E l'altro è che, essendo un print on demand, i prezzi sono veramente alti. Un gioco con una componentistica da 30 euro, diciamo, per un gioco standard, facciamo un Puerto Rico, su The Game Crafter arriva a costare 80 dollari più spedizione, che è tantino. The Captain is Dead, invece, essendo appunto dei proprietari di The Game Crafter, è avvantaggiato e ha un prezzo più abbordabile, costa una cinquantina di dollari. E mentre inizialmente era disponibile solo sul sito e tramite il Kickstarter che fecero tempo fa, ora sta per uscire la versione retail del gioco attraverso la Eldark Entertainment Group, la AEG. Quindi ad aprile uscirà nei negozi anche la versione retail, quindi non più solo print on demand, quindi con componenti migliori e il prezzo più o meno rimarrà quello, quindi direi che conviene aspettare. E parlando del gioco invece, allora, innanzitutto la maggior parte delle recensioni sono entusiastiche su questo gioco e le uniche negative dicono delle cose veramente penose, per dire gente che dà a questo gioco 2 di voto e dicendo: "Ah, è un cooperativo e a me non piacciono i cooperativi". Sì, ma quello è la base dei voti negativi di Board Game Geek, quando un utente dà un voto negativo del tipo 1, 2 o 3 e c'è il commento è sempre qualcosa che non c'entra nulla col gioco. Comunque è una cosa personale. Il numero di gente che gli ha dato 2 o 3 scrivendo "a me non piacciono i cooperativi" è assurdo, cioè sono veramente troppi, è una cosa veramente ridicola. Ma infatti Comunque, sono le stesse persone che danno quei voti lì a tutti gli altri cooperativi come Shadowinter o Shadow Over Camelot. oh, Ghost Stories. Comunque, vi parlo velocemente del gioco così Claudio puoi parlare tu. Il gioco praticamente funziona in questo modo. La storia inizia che siamo in un'astronave del pieno della battaglia finale della stagione e il capitano muore. E noi, membri della ciurma, ci ritroviamo a dover governare la nave e tutti i problemi che ne conseguono co senza il nostro leader. A questo punto inizia questo cooperativo dove noi iniziamo a muoverci tra gli spazi della nave cercando di aggiustare il più possibile e sopravvivere a quello che capiterà, quindi guasti tecnici, attacchi alieni e compagnia bella. Paragonabile ad esempio a un cooperativo come il Libro della Follia, cioè è una resistenza al gioco, devi resistere fino a un certo punto. E personalmente mi piace, mi ispira tantissimo già da quando lo vidi su The Game Crafter, e adesso che so che uscirà in retail lo comprerò quasi sicuramente. Ho già visto che alcuni siti italiani lo mettono già in pre-order, quindi arriverà anche in Italia tramite alcuni siti. E l'altra cosa da dire, alcune persone l'hanno paragonato a Battlestar Galactica, a un Battlestar Galactica senza il traditore e la componente comunque del diffidare, del bluff. Sinceramente mi sembra un po' esagerato, perché l'unica cosa che hanno in comune sono che è un cooperativo ambientato in un'astronave. E mi sembra un po' poco per dire questo. Ma Comunque. probabilmente perché ci sono i personaggi che si spostano e le varie zone avranno dei poteri, però è proprio il punto focale di Battlestar Galactica, è proprio il fatto del traditore, quindi. Sì, infatti, la cosa speciale di Battlestar Galactica è il fatto che tu per tutta. Il gioco è costruito per il modo che in tutta la partita tutti dubitino di tutti, perché ci sono delle meccaniche che fanno in modo che le prove vengano alterate anche senza che il traditore partecipi, e quindi sembra sempre che qualcuno sia il traditore. Vabbè, e questo era The Captain is Dead, che come dicevo, presto arriverà anche nei negozi. E sinceramente io lo consiglio. Il disegnatore italiano ha fatto un ottimo lavoro con questo stile, come dire, molto vettoriale, diciamo, con questa grafica vettoriale molto poligonosa da videogioco moderno che richiama comunque al retro game. Bene, Claudio, ora ho finito, puoi parlare. Va bene. Cosa ne pensi tu di The Captain is Dead? Ti ispira? È strano. Graficamente mi sembra, non mi sembra molto bello. Cioè, dico la grafica di quello che vediamo adesso, non del prodotto completo che uscirà poi. Perché si vede che è uscito, che è stato fatto dal sito GameCrafter, no, da allora GameCraft. parli della Cioè, gra. dico della Ah, componentistica. ecco, perché la grafica è molto bella. Beh, i disegni sono particolari, sì, però la componentistica mi sembra molto vanilla. La componentistica è quella di The GameCrafter. Gli stand-is sono quelli con lo sticker applicato sopra, dai. Però, Sì. ovviamente, la versione retail, mantenendo pur lo stesso prezzo, sarà molto meglio. Ah, il concetto è carino, però mi fa venire in mente giochi del tipo Deadman Telltale Tales, Sì. quei giochi dove devi praticamente riprendere le redini di un, in quel caso una nave in fiamme, più o meno il concetto è simile. Sì, il concetto è lo stesso praticamente. Cioè, anche qui l'astronave sta andando allo scatafascio e tu devi cercare di tenere botta, quindi va Sì, cioè bene. nell'altro devi rubare i tesori alle navi in fiamme, però comunque c'è la gestione delle fiamme e tutto il resto. Ok. Tanto, scusa, l'ultima cosa veramente. Tanto che aspettavo, sono andato a vedere quanto costerà la versione retail e costerà 55 euro. Ok. Va bene. Allora, questo qui è un gioco autopubblicato, quindi. Lui Hai era. detto. Adesso Lo era. ha trovato un distributore internazionale. Invece io porto un gioco distribuito proprio dall'autore, tutto autopubblicato, perché l'autore è un personaggio che ha tanti soldi perché aveva già una sua fama. L'autore del gioco è Ryan Lesser. Per chi non lo conoscesse, è un musicista, ma è anche il creatore di videogiochi del calibro di Guitar Hero. Ah, Ok. è il creatore di Guitar Hero. Il creatore di Guitar Hero ha fatto un gioco da tavola, che Ah. a me interessa perché è un gioco da due molto particolare con delle miniature bellissime. E io sono un amante dei giochi da due, mi piacciono un sacco, infatti ne ho molti nella mia collezione. Il concetto del gioco è un po' ignorantone, però le miniature coprono il problema, sono veramente belle. Il gioco si chiama High Heavens ed è una battaglia tra divinità nordiche e divinità greche, che può essere espanso con una terza fazione che sono le divinità egiziane. Ogni fazione ha 12 divinità, ognuno con la sua miniatura personale. E la cosa particolare del gioco è che tu queste miniature le devi applicare sopra a delle sorta di fish, che sono colorate. Ad esempio, le fish rosse sono i loro punti vita. Quindi tu metti 10 fish rosse sotto la miniatura di Thor, lui ha 10 punti ferita. Gli metti una fish gialla, ha un bonus in armatura. Gli metti una fish verde, è avvelenato. E quindi tu vedi queste miniature in questa plancia esagonale che si muovono sopra queste sorta di torri di fish che andranno a scalarsi. È un gioco di battaglia tattico dove avremo ogni turno un tot di azioni che se noi giocheremo poi diventeranno disponibili per l'avversario. Cosa significa? Che se io gioco un'azione, do un'azione in più all'avversario il prossimo turno, concettualmente. E dovremmo evocare un tot di divinità, massimo ne possiamo avere tre in campo finché non ne muore una. E quando questa una divinità viene uccisa in battaglia, quella perde tutti i suoi equipaggiamenti che possono essere scavalcati, diciamo, cioè possono essere ottenuti dalla prima divinità che ci sale sopra con le sue fish. Praticamente li raccoglie. Ci sono delle carte che vengono usate che danno dei potenziamenti e tutte le divinità hanno poteri completamente diversi e statistiche abbastanza particolari. Ha delle regole molto stravaganti ed è però sembra molto carino. Se non ricordo male, ci sono due modi di vincere la partita: o eliminare tutte le divinità avversarie o distruggere la base degli avversari, che può essere Asgard o l'Olimpo. Le miniature sono molto molto molto carine. Sì, Non so se ma ti è ti piaciuta. dirò, sto leggendo Sì. pareri di chi ha fatto il Kickstarter e a quanto pare il materiale con cui sono fatte le miniature è molto di bassa qualità, purtroppo. Nonostante la scultura sia be bellissima, sono state stampate con un PVC o un hard plastic, adesso non so di preciso, di bassa qualità a quanto pare. Ah, però c'è anche da dire che comunque non è un giocone. Cioè, si trova solo in America, ma costa tipo 30 dollari. Quindi anche questo ti fa Beh, capire comunque che non sono miniature di gran ok, qualità. allora Beh, oh. direi che ci sta. Eh sì, costa solo trentina di dollari ed è un gioco da 30 minuti, bene o male. Probabilmente dura massimo tre quarti d'ora. Perché è veloce e il mazzo non si rigira. Quando tu finisci le carte, l'hai finito. Comunque, nonostante questa cosa delle miniature, tutti dicono che è un gioco molto divertente e la fortuna tendenzialmente entra poco nel gioco Sì, e. perché non ci sono dadi, è tutto un fattore di poteri e calcoli, di distanze. Quindi alla fine la fortuna non c'è, è uno scacchi. Cioè sì, l'unica fortuna è il mazzo, è che non Ma ti girano le sì, carte. esatto, magari ci sarà proprio qualcosina di leggero, ma cioè, se non vuoi proprio la Lea, vai a giocare a dei German di quelli da testate del No, muro. vabbè, sì, tu lo conosci questo gioco? No, mai sentito. Io l'ho scoperto per caso girando sul GIC, perché di solito, cioè, anche lì si scoprono giochi nuovi. No, Cavolo, vedo però. che ha un buon voto. Ho visto anche il gameplay per impararmi il gioco. Sembra molto interessante. Non è un signor gioco, ma è un buon gioco da giocare a fine serata. La scultura è veramente bella, la qualità della scultura delle miniature. E poi vedo che la plancia ce ne sono anche più di una, a seconda del Pantheon, immagino. Ma forse l'altra è aggiunta dall'altra fazione, non lo so. A me piace molto questa idea delle miniature che girano sopra queste fish, è una cosa stranissima. Beh, sì, perché comunque ognuno ha i suoi poteri, però ricordo un po' Eco, in cui le miniature mangiando diventano pile più grosse di truppe, però è effettivamente una cosa diversa. No, è che lì sono pezzi di legno, cioè ci sono token di legno, qui sono proprio miniature. Sì, Che l'hanno vabbè. fatta la basetta fatta apposta. Vabbè, lo so, però comunque è più carino. Il concetto è Va bene. simile. Quindi, come potete vedere, in questo momento gli autori di videogiochi stanno iniziando a entrare anche nel mondo dei giochi da tavola. Come abbiamo già visto, gli autori di LOL aver fatto Mech vs. Minion, che è un gioco di cui tutti sono impazziti. Tipo, Inspiegabilmente. io non contribuisco tutta questa euforia perché non l'ho giocato, ma dalla meccanica mi sembra proprio un gioco sbagliato, per il mio parere, però non vuol dire nulla perché non l'ho mai provato. Questo invece mi interessa molto di più ed è uscito nel 2015. Tra l'altro, un secondo. Tra l'altro su Board Game Geek si può scaricare il gioco gratis in print and play. Con gli standish, sì. Sì, è la versione prototipo del regolamento prima che arrivasse dopo il Kickstarter, però ci sono tutti i componenti, anche gli standish, appunto, delle miniature da stampare, quindi se uno vuole provare il gioco può scaricare e stampare direttamente tutta la componentistica da Board Game Geek. Diciamo che è un gioco che può prendere gli appassionati della trilogia Cyclades, Kemet e Blood Rage, perché riprende quelle tre fazioni mitologiche, chiamiamole così. Va bene. Ok, allora direi che tocca a me. Io parlo di un gioco molto particolare che più che altro è nella mia wishlist per motivi di ambientazione, questo giro. E il gioco è un gioco di carte che si chiama La battaglia di Redcliffe. Conosci Claudio? Sì, dovrebbe essere la battaglia famosa a CB della Cina nel periodo della guerra dei Tre Regni. Esatto. E questo gioco di carte del 2009, appunto, è in realtà semplicemente una riedizione del Tianzi Kuè, ovvero la versione di carte del Mahjong. Quindi sostanzialmente è un gioco tradizionale con alcune regole aggiuntive e con l'ambientazione della battaglia di CB o Redcliffe, cioè Redcliffe la battaglia, CB è la zona geografica. Con delle illustrazioni che richiamano molto alla saga di videogiochi Dynasty Warrior, che è stata compagna della mia adolescenza, quindi. E quindi il gioco mi ha, appena l'ho visto per caso, perché l'ho visto per caso, mi ha subito catturato. In più adoro la storia del Medioevo cinese. Sì, diciamo che sto guardando adesso un attimo le immagini. La scelta dei personaggi sembra proprio basata sul videogioco, perché hanno Sì, preso sì. anche personaggi come Lady Diao Chan, che non c'entra molto con la battaglia. Sì, lo stile un po' più giapponesante, magari, cioè in realtà sì, anche la saga di giochi Dynasty Warrior è giapponese, però è un po' più, non so, manga, loli quasi. Comunque, tornando al gioco, invece che parlare di queste cose, come dicevo, il gioco specialmente è una versione più moderna, con regole più al passo coi tempi, quindi poteri dei personaggi piuttosto che del Mahjong di carte cinese, tipico della Cina. E tutto qui, semplicemente il gioco mi ha catturato per via dell'ambientazione scelta e delle illustrazioni, soprattutto per l'ambientazione perché probabilmente comprerei qualsiasi cosa ambientato durante la guerra dei Tre Regni cinese. Ok. Per il resto, il gioco del 2009 ed è stato pubblicato dalla Sunrise Tornado Game Studio, famosissima. Sì. Tiene fino a 9 giocatori, oltretutto. Vediamo questa Sunrise Tornado. Quanto pare, a parte aver fatto questo e varie espansioni, ha fatto altri giochi, tra cui alcuni ambientati appunto sempre in Cina, come Glory of the Three Kingdom, Guangdu Corset. Ah, quante cose interessanti. Ah, ma che bei giochi. Beh, se dopo ti interessa ancora parlare di cultura cinese, ce n'è uno nella mia wishlist che riprende comunque Ah, io il periodo. direi di sì. Comunque questa Sunrise Tornado Game Studio ha dei, veramente dei bei giochi in catalogo, non l'avevo visto. E niente, quindi il gioco è questo semplice gioco di carte e non so quanto sia facile trovarlo, penso non molto, soprattutto anche perché è uscito da anni e penso sia stato distribuito in poche copie in tutto il mondo, quindi. E vabbè, tutto qui. Adesso guardo magari se riesco a vedere un prezzo. Ah, trovato. Vediamo quanto può costare. 15 euro. E tra l'altro sembra che non sia neanche esaurito, si può recuperare. Ok. Bene, bene. Ah, c'è stata una riedizione nel 2013, ecco perché ancora. Bene Claudio, io ho fatto. Ho portato un titolo, tocca a te portare un titolo. Allora rimaniamo in tema cinese. Ma anche sì. Questo gioco da tavola che è uscito tramite Kickstarter nel 2015, quindi non si trova ancora in commercio. Ci trovano pochissime immagini per il poco che è già arrivato e pochissime spiegazioni, ma ha un'ambientazione molto bella, un sacco di belle miniature anche questo. È un gioco ispirato al celebre romanzo di Wu Cheng Zhen del 1590 cinese, Viaggio in Occidente. Ah, Ed sì. è il cooperativo di Viaggio in Occidente. Si chiama Journey, Wrath of Demons. Ah, l'ho visto l'altro giorno, ti dirò, l'idea mi è sembrata stupida. No, sai cosa? Scusami, io ho visto il gioco di ruolo di Viaggio in Occidente e l'idea mi è sembrata stupida. Allora, questo cos'è Viaggio in Occidente intanto? È un romanzo sul buddismo, del viaggio di un monaco insieme a tre creature che doveva recuperare dei testi del buddismo e Sutra. praticamente i sutra, sì, e trovare l'illuminazione. E nel suo viaggio avrebbe dovuto combattere contro dei demoni. Questo bonzo era accompagnato dal re Sun Wukong, il re delle scimmie, il maiale Zhu Wuneng, e il demone delle acque Xiao Wujing, che poi dopo verranno rinominati in tanti modi nelle varie riedizioni dell'opera, ma questi qui sono i nomi originali. Per fare un esempio, in questo gioco da tavola il maiale verrà chiamato Chou Akai, che è il nome che ha preso poi dopo nelle opere più moderne, che hanno ripreso questo trattato. È un gioco cooperativo fatto a varie tipologie di missioni, dove questi quattro personaggi che noi andremo a giocare dovranno affrontare dei demoni. Si trova veramente poco su questo gioco. Tipo, io ho visto solo pochissime meccaniche, tipo la meccanica della fortuna e della sventura, che è dettata da una ruota, praticamente. E le miniature sono veramente grandi. Per fare un esempio, la miniatura di Chou Akai, che è un demone maiale, è abbastanza grossa, ma anche a larga, direi. Sun Wukong non viene rappresentato come una scimmia, ma come un Oni, quindi un demone diabolico rosso. Più che altro questo gioco l'ho messo nella wishlist perché conosco il romanzo Viaggio in Occidente, mi piace l'Oriente, anche se qui stanno andando verso l'Occidente, mi piace la demonologia orientale e dà delle belle miniature, quindi quando uscirà sarò curioso prima di vedere come funziona e poi decidere se comprarlo, però almeno mi ricordo che esiste. A posto così. Ah, mi ripeti il titolo per favore? Journey, Wrath of Demons. Volevo dare un'occhiata anch'io alle miniature. Mi hai reso curioso. Però, sinceramente, mi sembra un tema molto poco spendibile per un gioco. Anche perché Dragon Ball, che è basato anche questo su Viaggio in Occidente, ha abbastanza travisato la storia originale. Sì, E ormai tutti pensano a Dragon Ball. ma in realtà non te ne rendi, cioè, se una persona non conosce il romanzo non si rende conto che è Ok. Dragon Ball, cioè solo per il nome Goku. Sì, devo ammettere che lo stile è così Onimusha del gioco, questo come dire, questo giapponese horror gotico. Si discosta parecchio da Dragon Ball. Ma rende anche molto, secondo Sì, me. è Cioè, molto bello. È fatto sicuramente molto per i videogiocatori moderni che giocano a giochi come Bloodborne o come si chiama quell'altro? Mi sfugge. ah, io non lo Vabbè. so. Io gioco Comunque, Super a Mario. questi giochi hack and slash con molto horror moderni. Ok. Va bene, ok, adesso tocca a me e ecco un gioco che nessuno avrebbe aspettato che fosse nella mia wishlist, ma anche questo c'è solo per il tema, perché il gioco è un German di Martin Wallace Ok. ed è The Witches a Discworld Game, ed è Ah, vabbè, sì, questo è vecchiotto. semplicemente perché adoro Terry Pratchett e adoro i libri sulle streghe di Pratchett. Ora allora devi stare attento perché non esiste solo questo di giochi sul mondo di Discord da tavola, ce ne sono altri. Sì, c'è anche Però non sono ben visti gli altri. Questo qui forse è quello visto un po' meglio. quello visto un po' meglio, ma neanche tanto meglio, direi. No, anche perché mi ricordo anche un pochino la meccanica di questo gioco, ne avevo solo dato un'occhiata. Il primo gioco ambientato sul mondo disco è Ankh-Morpork, che è la città in cui sono ambientati la maggior parte dei racconti di Pratchett. E dove c'è l'università della magia. Mentre questo è il secondo gioco a questa ambientazione, almeno quanto dicono, e ce ne dovrebbe essere anche un terzo, tutti e tre di Martin Wallace, autore di German famosissimo, che tutti conosciamo. E niente, semplicemente il gioco ci vedrà prendere il controllo di una delle streghe dei vari romanzi sulle streghe di Pratchett e dovere salvare il regno da un'invasione di elfi. Tutto questo con meccaniche che ricordano i German. Nonostante questo, il gioco è un semi cooperativo perché per non perdere bisognerà cooperare in certi momenti, ma vince uno solo. Quindi il gioco in realtà è tipo Caos nel vecchio mondo, cioè nel senso siamo tutti contro gli umani, ma uno solo di noi vincerà. Però attenzione, non è, cioè, è un po' più comico perché le cose che dovremmo evitare, cioè che dovremmo debellare, saranno problemi che colpiscono la popolazione, che possono essere come una malattia o possono essere che il maiale del contadino sia ammalato, cioè sta male, ha il mal di pancia. No, me lo ricordo perché tu giri delle tessere e vedi cosa sta succedendo in certe zone della planta, Sì, devi sì, sì. andare. Vabbè, è il tipico umorismo di Pratchett questo, che è molto particolare, che per chi a chi piace Pratchett adorerà le battute che sono in questo gioco e soprattutto vedere i personaggi che l'hanno accompagnato nei vari romanzi. Anche se l'illustratore del gioco non penso sia l'illustratore ufficiale che aveva Pratchett anni fa, perché adesso è cambiato l'illustratore dei romanzi del mondo disco delle riedizioni perché Pratchett è morto. Ma non so, non mi sembra sia l'illustratore dei romanzi, il vecchio illustratore dei romanzi, che aveva uno stile così sporco, no? Infatti, uno stile così sporco, così medievale, era bellissimo. E niente, quindi il gioco in realtà, come ripeto, è nella mia wishlist più che altro per il tema, che a volte, come tutti sappiamo, basta il tema per vendere e in questo caso potrebbe farcela perché ancora non l'ho comprato. Il gioco in Italia non è uscito ancora, ma visto che in molte parti del mondo è distribuito dalla Devir e la Devir è sbarcata in Italia da poco più di un anno, è probabile, si spera. Potrebbe succedere che sarà proprio la Devir a distribuirlo nel nostro paese. Nonostante questo, si trova nelle edizioni Yellow o come My Fair Game e il gioco costa una quarantina di euro. Ah, un'altra cosa di questo gioco. Ci sono le miniature delle streghe nel gioco, che però purtroppo, se no, no, mi sbaglio, sono tutte diverse. Però c'è la casa di miniature Micro Art Studio, polacca, che detiene i diritti di Discworld per la produzione di miniature. E ha fatto anche i PoVN alternativi per questo gioco. Da Micro Art Studio si possono comprare delle miniature di miglior qualità, fatte di materiali migliori e con un'altra scultura, per questo gioco. Quindi si può ampliare con i PoVN comprati dal sito della MicroArt. Ho comprato per altri motivi da MicroArt e posso dire che è un ottimo sito, molto affidabile, un ottimo venditore, veloce e tutto quanto. Ok, Claudio. Va bene, andiamo sul Big One adesso, sul gioco più in alto della wishlist, sul prossimo acquisto che sarà molto molto lontano, perché adesso non ho modo di poterlo comprare, ma un giorno avverrà e non me lo sarei mai aspettato, ma alla fine mi sono lasciato convincere, perché il gioco di cui sto per parlare è un gioco uscito nel 2016, ha sempre delle belle miniature, ma è un gioco che ha ripreso un vecchio titolo che io ho odiato e che l'ha fatto trasformare in un gioco che sembra veramente bello. E io me lo sono guardato per bene, me lo sono studiato tutto per bene, non l'ho ancora provato, ma sono certo che può essere un gran cooperativo, a dispetto del suo precursore, e questo è Mansion of Madness seconda edizione. Ok? Io ho Sì. odiato il primo Mansion of Madness per vari motivi, e tutti i motivi che me l'hanno fatto odiare sono stati tolti nella seconda edizione. Che E strano. sono stati sostituiti con delle meccaniche intriganti e particolari che mi hanno incuriosito e sono molto molto interessanti. Allora, se nella prima edizione di Mansion of Madness avevamo un giocatore che usava i mostri e avevamo praticamente, diciamo, un percorso che se non era eseguito in modo perfetto portava in stallo la partita o in una sconfitta sicura, adesso abbiamo un'applicazione da usare sul tablet, sul cellulare, volendo anche, che mi aveva reso scettico agli inizi perché io non sono molto avvezzo a queste cose tecnologiche. E per esempio non sono un amante di giochi di quel genere, come per esempio XCOM che ho provato, che non mi era piaciuto minimamente. Eppure, guardando il gameplay, l'applicazione ha il suo perché. Poiché questa, a seconda dei personaggi selezionati all'inizio partita, genererà delle missioni, una missione diversa, con parti della plancia, che avremo delle tessere plancia, come nella prima edizione, che però verranno disposte in modo casuale, ovviamente con un senso logico. E quindi le partite saranno sempre diverse. Ci saranno dei personaggi secondari all'interno di queste mappe con cui noi potremo interagire e dovremo dire all'app che ci stiamo parlando e l'app ci dirà quale domanda fargli fare e quindi anche le reazioni che farà il personaggio. E l'app gestirà praticamente ogni cosa. Noi dovremo solo dirgli: in questo turno ho deciso di attaccare questo mostro e ho fatto questo risultato. E dopo l'app ti dirà cosa succede. Oppure nella prima edizione avevamo gli enigmi. Che gli enigmi erano delle sorte Sì. di puzzle. Adesso sono dei puzzle minigioco all'interno dell'applicazione, dove tu hai un tot di mosse per risolvere. È più sensato, in questo, cioè, per quanto non mi piaccia la componente elettronica dentro a un gioco da tavola, questo è sensato. Però attenzione, ti dirò, se una volta Mansion of Madness era un gioco pesante, dove qualunque cosa ti uccideva e tu non riuscivi a fare nulla per il dado da 8. In questo, dove tu hai dei dadi che non sono dadi numerati, sono dadi con dei simboli ed è più facile ottenere dei successi. Ci sono personaggi che non subiscono ferite, cioè di base, cioè tocca in ferita. Qui, quando tu subisci una ferita o sanità mentale o ferita fisica, prendi una carta che ti simboleggia la ferita, che a volte deve anche essere girata e attiva un effetto negativo. Quindi è ancora più particolare la cosa. Perché cerchi di evitare di accumularle perché comunque dopo accumuli malus dietro l'altro. Però la senti meno pesante e in più l'applicazione genera anche i mostri che tu non sai da dove compariranno e che interagiscono. Per esempio esce un cultista in casa perché tu hai rubato un certo oggetto, lui se ne è reso conto, è arrivato e potrebbe anche incrociare un personaggio secondario e interagire con un personaggio secondario. E questa è la cosa divertente. È molto più... Se una volta era... una cosa più data dal master. Adesso questo qui è un gioco che grazie all'applicazione viene più è reso più ambientato, più interpretativo a tutti i giocatori, perché nessuno sa quello che potrebbe accadere e ognuno è più incline a usare il suo personaggio, ci sono più particolarità, ci sono un sacco di variabili. È meno mortale del primo gioco. Perché c'è è un'applicazione, non è un giocatore che ti può, se gli gira male, massacrarti nel giro di pochi turni. Sì. E in più ha un sacco di belle miniature e ha il fattore che puoi integrare all'interno di questo gioco anche tutte le cose del primo, cioè i personaggi e le altre miniature. Ah, ottimo, anche perché la prima edizione aveva una marea di espansioni. Io credo che questo sia uno dei titoli che sono andati, cioè uno dei titoli maggiori dell'ultimo anno. Sicuramente la Fantasy Flight ci ha investito in pompa magna perché è uscito il gioco e praticamente immediatamente sono uscite tre espansioni, quindi erano sicuri di vendere tanto e subito. E in più, se un Mansion of Madness durava poco perché si moriva subito o durava tanto, questo ha una media di un'ora, un'ora e mezza di durata. Quindi è un gioco normale. Però ha un prezzo molto elevato perché contiene un sacco di cose, dovrebbe costare sui 80-90 euro. Sì, l'edizione italiana Giochi Uniti costa 80 euro, leggermente meno dell'edizione inglese della Fantasy Flight. Ed è l'unico gioco reperibile dalle nostre parti di quelli che ho parlato della mia wishlist. Ok. 90 euro, scusate, volevo dire 90 euro, non 80. La vecchia edizione costava 80. Se non siete sicuri, andatevi a guardare qualche gameplay perché merita. Secondo me è un gioco molto ambientato. Ed è, può essere un buon cooperativo anche per iniziare persone perché toglie tutte le cose complicate e qui vengono gestite da un'applicazione. La vecchia edizione era logorroica, veramente. Ogni volta che dovevi passare, incrociare lo stesso mostro che hai già visto 800 volte, dovevi fare il test per perdere la sanità mentale. Cioè, l'ho già visto. Cioè. Vabbè. Ok. Va bene, io direi che, visto che stiamo andando lunghi, diciamo l'ultimo gioco a testa e poi chiudiamo qui e magari la prossima puntata la dedichiamo a finire questo argomento della wishlist, ok? Va bene. Anche perché, come dicevamo prima, la tua wishlist è molto lunga, ma anche la mia ancora lo è. Potremmo fare svariati episodi sulla wishlist. Bene, visto che tu hai parlato di Kickstarter, anch'io parlerò di un gioco che è uscito tramite Kickstarter. E il gioco è Teenage Mutant Ninja Turtles Shadow of the Past. Ok. Quindi il gioco da tavolo delle Tartarughe Ninja è basato però sui fumetti delle Tartarughe Ninja, quindi non sul cartone animato con le sue varie incarnazioni, nemmeno sui film vecchi e nuovi. I vecchi erano belli, i nuovi fanno schifo. E allora, innanzitutto, da dire subito è bellissima la grafica. L'edizione Kickstarter aveva due scatole, la scatola base, diciamo standard, che ha un'illustrazione della serie a fumetti degli anni 80, che è molto bella, con col suo stile dark, e l'altra che è invece quella deluxe, che ha forma di scatola di pizza, che è ancora più bella. Una bella scatola della pizza, poi fatta come quelle vecchie con i quadratini rossi, tutta bianca, quelle Sì, americane. esatto. È come quelle che ci sono nel fumetto e nei film vecchi del Tartarughe Ninja. Bellissimo. Poi, passando a questo, passando sopra questo, il Kickstarter comunque contiene miniature. E quindi, anche queste, a differenza delle miniature dei giochi di cui hai parlato tu prima, sono molto più grezze. Hanno una scultura sicuramente fatta a computer. E infatti si vede che sono dei CAD non molto curati. Però vabbè, non è importante. Cioè, in un gioco di miniature la qualità della miniatura non è importante. Se parliamo invece di, ad esempio, Warhammer, è un altro discorso, ma se parliamo di un gioco da tavola, sono due cose separate. E tornando al gioco, praticamente il gioco è come Mice and Mystic, per dirne una, o Zombicide. Un gioco a campagne, quindi dentro abbiamo le nostre plance, i vari token, tutto il resto, e scegliendo una missione dal libretto, dal regolamento, giocheremo quella. L'unica cioè, l'unica problematica magari è che in tutte le missioni un giocatore deve fare il cattivo. Quindi se Mansion of Madness, come dicevi prima, è riuscito a togliere questa obbligo di far fare a un giocatore il cattivo e quindi dover usare semplicemente le cose del gioco ad essere contro gli altri. Qui invece siamo ancora ai vecchi sistemi. Quindi un giocatore farà Shredder e terrà il clan del piede o il cattivo di turno dello scenario. Gli altri quattro invece terranno le tartarughe, quindi il gioco è da 2 a 5, una tartaruga contro Shredder o tutte e quattro contro Shredder, fino a tutte e quattro contro Shredder. Poi gli altri personaggi classici della serie compaiono comunque nei scenari come Casey Jones, Splinter e compagnia bella. Anche questo è un gioco che più che altro vende per la sua ambientazione. Infatti, se non fossero state le Tartarughe Ninja, fosse stato un cooperativo randomico a scenari, non l'avrei nemmeno preso in considerazione. E niente, quindi, boh, chissà, magari un giorno lo comprerò. A te ispira? A Sì. tutti ispirano le tartarughe. Poi sono le tartarughe quelle dure, Quelle crude. vecchie, Sì, esatto. quelle vere, dai, non. Sì, quelle come le ha ideate il loro autore, e che tra l'altro è l'illustratore di parte del gioco, se non sbaglio. Il gioco costa 90 euro in versione retail, però ancora non dovrebbe essere disponibile, penso. Penso che stia ancora arrivando il Kickstarter ai baker. Ok. Penso. Purtroppo i Kickstarter sono così, tirano per le lunghe. Va bene, ma io direi che possiamo anche chiudere qui adesso. Se non hai... Tanto. Ok, va bene. No, titoli ne ho, però dopo se si allunga troppo la puntata. L'altro, un'ultima cosa, visto che delle tartarughe ninja. L'autore del gioco delle tartarughe ninja è lo stesso di Arkham Horror, Sì. ma anche di un gioco che è tu, Arena Maximus. Ok. Vabbè, fatto. Sì, sarà un po' di salto di qualità, insomma. Sì. Ok. Ok. Va bene, allora quindi siamo pronti a salutarci qui per questo episodio. Ah, anche l'autore di Darkness Comes Rattling. Siamo pronti a salutarci qui per questo episodio. Vi invitiamo a venirci a trovare tutti i venerdì alla nostra associazione Area Games presso il Bar President di Forlì Abbiamo. Sì, vai. in zona Ronco, Viale Roma, zona Ronco. Di Claudio. Abbiamo un sacco di titoli da far provare. Adesso abbiamo anche Sicla adesso con tutte le espansioni dipinto, quindi non lasciatevelo scappare. E anche Battlestar Galactica con tutte le espansioni. Dipinto. Sì, anche quelle dipinte, per quel poco che c'è. E Madonna, Dragon Ball Z The Miniature Game. Vabbè, e quindi tutti i venerdì alle 9 presso il Bar President potete venire alla nostra associazione a giocare. Da noi nessuno rimane in piedi, quindi se vi presentate a mani vuote, senza giochi, senza giocatori, noi vi mettiamo a sedere e vi facciamo giocare a qualcosa. Per il resto, non abbiamo altri eventi ancora in programma, visto che la prossima riunione associativa dove si decideranno queste cose è tra un paio di settimane. Appena ci sarà, un piano, ve lo faremo sapere. Per ora vi salutiamo qui e vi invitiamo a continuare a seguirci su Radio Big World tutti i lunedì sera alle 9, alle 8, scusate, alle 8. Oppure semplicemente a recuperare i nostri episodi quando volete, sempre sul canale SoundCloud di Radio Big World che trovate come inserito nella pagina del nostro podcast nel sito Radio Big World oppure direttamente su SoundCloud. Bene, ci salutiamo qui, ciao e alla prossima. Ciao.